7. I fratelli. Clara e Blanca arrivarono alla capitale con l'aspetto triste di due sinistrate. Avevano entrambe la faccia gonfia, gli occhi rossi di pianto e i vestiti stropicciati per il lungo viaggio in treno. Blanca, più fragile di sua madre, malgrado fosse molto più alta, più giovane e più robusta, sospirava da sveglia e singhiozzava da addormentata in un lamento ininterrotto che durava dal giorno delle botte. Ma Clara non sopportava le disgrazie, sicché, arrivata alla grande casa dell'angolo, che era vuota e lugubre come un mausoleo, decise che bisognava farla finita con i pianti e le lamentele, che era ora di rendere allegra la vita. Costrinse sua figlia ad aiutarla nel compito di assumere nuova servitù, aprire le imposte, togliere le lenzuola che ricoprivano i mobili, le fodere dai lampadari, i lucchetti dalle porte, scuotere la polvere e lasciare entrare la luce e l'aria. Erano così occupate quando la casa fu invasa dall'inconfondibile profumo di violette silvestri, sicché seppero che le tre sorelle Mora, avvertite per telepatia o semplicemente dall'affetto, erano venute a trovarle. Il loro cicaleccio felice, le loro compresse d'acqua fredda, il loro conforto spirituale e il loro fascino naturale fecero sì che madre e figlia si riprendessero dalle contusioni del corpo e dai dolori dell'anima. Bisognerà comprare altri uccellini, disse Clara, guardando dalla finestra le gabbie vuote e il viluppo del giardino, dove le statue dell'Olimpo si ergevano nude e sporche di cacche di piccioni. Non so come possa pensare agli uccellini se le mancano i denti, mamma, osservò Blanca, che non si era abituata al nuovo viso sdentato di sua madre. Clara trovò tempo per tutto. In un paio di settimane aveva riempito le vecchie gabbie di nuovi uccellini e si era fatta fare una protesi di porcellana che le stava su grazie a un ingegnoso meccanismo che l'agganciava ai molari che le rimanevano. Ma il sistema si era rivelato così scomodo che aveva preferito tenere la dentatura posticcia appesa a un nastro al collo. Se la metteva solo per mangiare e talvolta durante le riunioni di società. Clara restituì la vita alla casa. Diede ordine alla cuoca di tenere il focolare sempre acceso e le disse che dovevano essere pronti per dar da mangiare a un numero variabile di ospiti. Sapeva quello che diceva. Di lì a pochi giorni cominciarono ad arrivare i suoi amici Rosa Croce, gli spiritisti, quelli che chiamavano la pioggia, i peripatetici, gli avventisti del settimo giorno, gli artisti bisognosi o in disgrazia e infine tutti coloro che costituivano abitualmente la sua corte. Clara regnava su di loro come una piccola sovrana, allegra e senza denti. In quell'epoca cominciarono i suoi tentativi seri di comunicare con gli extraterrestri e, come lei scrisse, ebbe i suoi primi dubbi rispetto all'origine dei messaggi spirituali che riceveva tramite il pendolo o il tavolino a tre gambe. La si udì spesso dire che forse non erano le anime dei morti a vagare in un'altra dimensione, bensì semplicemente esseri di altri pianeti che cercavano di stabilire un rapporto con i terrestri, ma che, essendo fatti di una materia impalpabile, era facile confonderli con le anime dei morti. Quella spiegazione scientifica piacque molto a Nicolas, ma non riscosse la stessa accoglienza dalle tre sorelle Mora, che erano molto conservatrici. Blanca viveva estranea a quei dubbi. Gli esseri di altri pianeti rientravano per lei nella stessa categoria degli spiriti. E non poteva quindi capire la passione di sua madre e degli altri per identificarli. Era molto presa dalla casa perché Clara si era disinteressata delle faccende domestiche con la scusa che non vi aveva mai avuto alcuna predisposizione. La grande casa dell'angolo richiedeva un esercito di servitori per tenerla pulita e il seguito di sua madre costringeva a tenere turni permanenti in cucina. Bisognava cucinare granaglie ed erbe per taluni, verdure e pesce crudo per talaltri, frutta e latte acido per le tre sorelle Mora e succulenti piatti di carne, marmellate e altri veleni per Jaime e Nicolas, che possedevano un appetito insaziabile e non avevano ancora acquisito manie proprie. Col tempo entrambi avrebbero patito la fame, Jaime per solidarietà con i poveri e Nicolas per purificarsi l'anima. Ma a quell'epoca erano due ragazzoni ansiosi di godere dei piaceri della vita. Jaime era entrato all'università e Nicolas stava ancora cercando la sua strada. Avevano un'automobile preistorica, comprata col ricavato dei vassoi d'argento che avevano rubato dalla casa dei loro genitori. L'avevano battezzata Covadonga in memoria dei nonni del Vaie. Covadonga era stata smontata e rimontata tante volte con altri pezzi che a stento poteva spostarsi. Si muoveva con lo strepito del suo sconquassato motore, sputando fumo e bulloni dal tubo di scappamento. I fratelli se la spartivano salomonicamente, i giorni pari la usava Jaime e i dispari Nicolás. Clara era felice di vivere con i suoi figli e diede avvio a un rapporto amichevole. Aveva avuto pochi contatti con loro durante l'infanzia e nell'ansia che si facessero uomini, tra virgolette, aveva perso le ore migliori dei suoi figli e aveva dovuto reprimere ogni tenerezza. Adesso che erano diventati adulti, finalmente uomini fatti, poteva prendersi il gusto di coccolarli, come avrebbe dovuto fare quando erano piccoli, ma ormai era tardi perché i gemelli erano cresciuti senza le sue carezze e avevano finito per non avere più bisogno di lei. Clara comprese che non le appartenevano. Non perse la testa né la buona volontà, accettò i ragazzi così com'erano e si dispose a godere della loro presenza senza chiedere niente in cambio. Blanca tuttavia brontolava perché i suoi fratelli avevano trasformato la casa in un letamaio. Dietro di sé lasciavano una scia di disordine, chiasso e cagnara. La giovane ingrassava a vista d'occhio e sembrava ogni giorno più languida e di cattivo umore. Jaime notò la pancia di sua sorella e andò da sua madre. «Credo che Blanca sia incinta, mamma», disse senza preamboli. «Me lo immaginavo, figliolo», sospirò Clara. Blanca non lo negò e, una volta confermata la notizia, Clara lo scrisse con la sua tonda calligrafia sul quaderno in cui annotava la vita. Nicolás sollevò lo sguardo dal suo oroscopo cinese e suggerì che bisognava dirlo al padre perché di lì a un paio di settimane il fatto non si sarebbe più potuto nascondere e tutti se ne sarebbero accorti. «Non dirò mai chi è il padre», disse Blanca con fermezza. «Non alludo al padre della creatura, bensì al nostro», disse suo fratello. Papà ha il diritto di saperlo da noi prima che glielo dica qualcun altro. Mandate un telegramma in campagna, suggerì Clara tristemente. Si rendeva conto che quando Esteban Trueba fosse stato al corrente, il bambino di Blanca si sarebbe trasformato in una tragedia. Nicolás compilò il messaggio con lo stesso spirito crittografico con cui scriveva versi ad Amanda, perché la telegrafista del paese non capisse il telegramma e non diffondesse il pettegolezzo. Mandi istruzioni in cinta bianca. Punto. Allo stesso modo della telegrafista, Esteban Trueba non poté decifrarlo e dovette chiamare al telefono casa sua per essere informato del fatto. E toccò a Jaime spiegarglielo e aggiunse che la gravidanza era così avanti che non si poteva pensare ad alcuna soluzione drastica. All'altro capo della linea ci fu un lungo e terribile silenzio e poi suo padre riattaccò il ricevitore. Alle Tre Marie, Esteban Trueba, livido di sorprese e di rabbia, afferrò il bastone e fracassò il telefono per la seconda volta. Non gli era mai passato per la mente che una figlia sua avesse potuto commettere una corbelleria così mostruosa. Sapendo chi era il padre, non impiegò più di un secondo a pentirsi di non avergli ficcato una palla nella nuca quando ne aveva avuto l'occasione. Era sicuro che lo scandalo sarebbe stato lo stesso sia che avesse dato alla luce un bastardo, sia che si fosse sposata col figlio di un contadino. La società l'avrebbe condannata all'ostracismo in entrambi i casi. Esteban Trueba trascorse molte ore girando per casa a grandi passi, dando bastonate ai mobili e ai muri, mormorando bestemmie tra i denti, architettando piani strampalati che andavano dallo spedire Blanca in un convento in Estremadura sino ad ammazzarla di botte. Infine, quando si fu calmato un poco, gli venne in mente un'idea risolutrice. Si fece sellare il cavallo e se ne andò al galoppo al villaggio. Trovò Jean de Satigny, che non aveva più rivisto dopo quella disgraziata notte in cui era stato svegliato dal racconto dell'amorazzo di Blanca, che stava bevendo succo di melone senza zucchero nell'unica pasticceria del paese, in compagnia del figlio di Indalecio Aguirre-Sabal, un bell'imbusto azzimato che parlava con voce stridula e recitava Rubén Darío. Senza alcun rispetto, Trueba afferrò il conte francese per il bavero della sua impeccabile giacchetta scozzese e lo tirò fuori dalla pasticceria sollevandolo di peso davanti agli sguardi attoniti degli altri clienti e mollandolo sul marciapiedi. «Lei mi ha creato abbastanza problemi, giovanotto. Prima quello dei suoi maledetti cincillà e poi mia figlia. Adesso sono stufo. Vado a prendere le sue carabattole perché viene alla capitale con me. Si sposerà con Blanca. Non gli diede il tempo di riprendersi dalla sorpresa. Lo accompagnò all'albergo del villaggio, dove rimase in attesa con la frusta in una mano e il bastone nell'altra, mentre Jean de Satigny faceva le valigie. Poi lo portò direttamente alla stazione e lo fece salire senza riguardi sul treno. Durante il viaggio, il conte tentò di spiegargli che non aveva nulla a che vedere con quella faccenda e che non aveva mai messo neppure un dito su Blanca Trueba, che probabilmente il responsabile di quanto successo era il frate barbuto con cui Blanca si incontrava di notte in riva al fiume. Esteban Trueba lo fulminò col suo sguardo più feroce. Non so di cosa stia parlando, giovanotto. Lei se l'è sognato, gli disse. Trueba proseguì spiegandogli le clausole del contratto matrimoniale, cosa che tranquillizzò abbastanza il francese. La dote di Blanca, la sua rendita mensile e la prospettiva di ereditare una fortuna la trasformavano in un buon partito. Come vede, questo è un affare migliore di quello dei Cincillà, concluse il futuro suocero senza prestare attenzione al parlottio nervoso del giovanotto. E fu così che il sabato Esteban Trueba arrivò nella grande casa dell'angolo con un marito per sua figlia deflorata e un padre per il piccolo bastardo. Sprizzava scintille dalla rabbia, con una manata rovesciò il vaso coi crisantemi dell'entrata, diede uno schiaffo a Nicolas, che aveva tentato di intercedere per spiegare la situazione, e annunciò gridando che non voleva vedere Blanca e che doveva starsene chiusa fino al giorno del matrimonio. Clara non gli andò incontro per riceverlo. Rimase nella sua stanza e non gli aprì nemmeno quando lui spaccò il bastone d'argento sbattendolo contro la porta. La casa entrò in un turbinio di attività e di bisticci. L'aria sembrava irrespirabile e persino gli uccelli rimasero silenziosi nelle gabbie. I domestici correvano agli ordini di quel padrone ansioso e brusco che non ammetteva ritardi nell'esaudimento dei suoi desideri. Clara continuò a fare la stessa vita, ignorando suo marito e rifiutandosi di rivolgergli la parola. Il fidanzato, praticamente prigioniero del suo futuro suocero, venne sistemato in una delle numerose stanze degli ospiti, dove passava la giornata rigirandosi senza avere niente da fare, senza vedere Blanca e senza capire come fosse finito in quel romanzo d'appendice. Non sapeva se lamentarsi di essere vittima di quei barbari aborigeni o se rallegrarsi di poter realizzare il suo sogno di sposare un'ereditiera sudamericana, giovane e bella. Siccome era di temperamento ottimista e dotato del senso pratico proprio della sua razza, optò per il secondo caso e nel giro di una settimana si andò tranquillizzando. Esteban Trueba fissò la data del matrimonio di lì a 15 giorni. Decise che il miglior modo per evitare lo scandalo era di prevenirlo con nozze spettacolari. Voleva vedere sua figlia sposata dal vescovo con abito bianco e uno strascico di 6 metri, sostenuto da paggi e da damigelle, con fotografia sulla cronaca mondana del giornale. Voleva una festa luculliana e sfarzo e spreco affinché nessuno badasse alla pancia della sposa. L'unico che lo assecondò nei suoi piani fu Jean de Satigny. Il giorno in cui Esteban Trueba chiamò sua figlia per mandarla dalla sarta a provarsi il vestito da sposa, fu la prima volta che la vide dopo la notte delle bastonate. Si spaventò nel vederla grassa e con macchie sulla faccia. «Non mi sposerò, papà», disse. «Zitta!» ruggì lui. «Si sposerà perché non voglio bastardi in famiglia! Ha capito?» «Credevo che ne avessimo già parecchi», rispose Blanca. «Non mi risponda!» Sappia che Pedro Terzo Garcia è morto. L'ho ammazzato con le mie stesse mani, sicché si dimentichi di lui e cerchi di essere una sposa degna dell'uomo che la porterà all'altare. Blanca si mise a piangere e continuò a piangere instancabilmente nei giorni che seguirono. Il matrimonio che Blanca non voleva venne celebrato nella cattedrale con benedizione del vescovo e un abito da regina confezionato dal miglior sarto del paese, che aveva fatto miracoli per nascondere il ventre prominente della sposa con ghirlande di fiori e pieghettature greco-romane. Le nozze culminarono in una festa spettacolare, con 500 invitati in abito di gala che invasero la grande casa dell'angolo, animata da un'orchestra di musicisti a pagamento, con una montagna di buoi insaporiti da erbe fini, frutti di mare freschi, caviale del Baltico, salmone di Norvegia, cacciagione tartufata, un torrente di liquori esotici, un getto interminabile di champagne, Uno sperpero di dolci, sospiri, mille foglie, bignè, cannoli, marzapani, grandi coppe di cristallo con frutta glassata, fragole d'Argentina, cocco del Brasile, papaie del Cile, ananas di Cuba e altre delizie impossibili da ricordare, sopra una lunghissima tavola che si snodava nel giardino e finiva con una sproporzionata torta a tre piani, fatta da un pasticcere italiano originario di Napoli, amico di Jean de Satigny, che aveva trasformato gli umili materiali, uova, farina e zucchero, in una copia dell'acropoli circondata da una nuvola di meringhe, fra cui giacevano due amanti mitologici, Venere e Adone, fatti di pasta di mandorle dipinta, per imitare il tono rosato della carne, il biondo dei capelli, l'azzurro cobalto degli occhi, in compagnia di un cupido rotondetto, anche lui commestibile, che venne tagliata con un coltello d'argento dallo sposo orgoglioso e dalla sposa desolata. Clara, che dapprima si era opposta all'idea di far sposare Blanca contro la sua volontà, decise di non partecipare alla festa. Rimase nel laboratorio di cucito a elaborare tristi presentimenti per gli sposi che si avverarono alla lettera, come tutti poterono verificare più tardi, finché suo marito non andò a supplicarla che si cambiasse d'abito e si mostrasse in giardino almeno per 10 minuti, in modo da far tacere i mormorii degli invitati. Clara lo fece di malavoglia, ma per amore di sua figlia si mise i denti e sorrise a tutti i presenti. Jaime arrivò alla fine della festa perché si era fermato a lavorare nell'ospedale dei poveri, dove cominciava a far pratica come studente di medicina. Nicolas arrivò accompagnato dalla bella Amanda, che aveva appena finito di scoprire Sartre e aveva assunto l'aria fatale delle esistenzialiste europee, tutta in nero, pallida, con gli occhi bruni dipinti di bistrò, i capelli scuri, sciolti fino alla vita e una sonagliera di collane, braccialetti e orecchini che suscitavano sensazione quando passava. Da parte sua, Nicolas era vestito di bianco come un infermiere, con amuleti appesi al collo. Suo padre gli andò incontro, lo prese per un braccio e lo spinse a viva forza nel bagno, dove prese a strappargli i talismani senza tante storie. Vada nella sua stanza e si metta una cravatta decente, poi torni alla festa e si comporti come un gentiluomo. Non le passi per la testa di predicare qualche religione eretica tra gli invitati e dica a quella strega che l'accompagna di chiudersi la scollatura, ordinò Esteban a suo figlio. Nicolás obbedì di pessimo umore. E prima non aveva bevuto, ma per la rabbia beve qualche bicchiere, perse la testa e si gettò vestito nella fontana del giardino da dove dovettero tirarlo fuori con la dignità fradicia. Blanca trascorse tutta la serata seduta su una seggiola a guardare la torta con espressione inebetita e a piangere, mentre suo novello sposo svolazzava tra i commensali giustificando l'assenza della suocera con un attacco d'asma e il pianto della sposa con la commozione delle nozze. Nessuno gli credette. Jean de Satigny dava a Blanca piccoli baci sul collo, le prendeva la mano e cercava di consolarla con sorsi di champagne e gamberetti scelti amorosamente e offerti con le sue stesse mani, ma tutto era inutile. Lei continuava a piangere. Nonostante ciò, la festa fu un avvenimento, così come l'aveva progettato Esteban Trueba. Mangiarono e bevvero lautamente e videro spuntare l'alba, ballando al suono dell'orchestra, mentre in città i gruppi di disoccupati si scaldavano intorno a piccoli falò fatti con i giornali. Folle di giovani con le camicie nere sfilavano, salutando col braccio teso, come avevano visto nei film sulla Germania. E nelle sedi dei partiti politici si davano gli ultimi tocchi alla campagna elettorale. Vinceranno i socialisti, aveva detto Jaime, che a furia di stare con il proletariato nell'ospedale dei poveri si faceva illusioni. No, figliolo, vinceranno quelli di sempre, aveva replicato Clara, che l'aveva letto nelle carte e gliel'aveva confermato il suo buon senso. Dopo la festa, Esteban Trueba si portò il genero nello studio e gli firmò un assegno. Era il suo regalo di nozze. Aveva sistemato le cose in modo che la coppia se ne andasse al nord, dove Jean de Satigny pensava di vivere comodamente con la rendita di sua moglie, lontano dalle chiacchiere della gente osservatrice che non avrebbe fatto a meno di notare il suo ventre prematuro. Aveva in mente un affare di anfore e di mummie indiane. Prima che i novelli sposi lasciassero la festa, andarono ad accomiatarsi dalla madre. Clara prese da parte Blanca, che non aveva smesso di piangere, e le parlò di nascosto. Smetta di piangere, figliola. Tante lacrime faranno male al bambino e non serviranno a essere felice, disse Clara. Blanca rispose con un altro singhiozzo. Pedro Terzo García è vivo, figliola, aggiunse Clara. Blanca ingoiò il singhiozzo e si soffiò il naso. Come lo sa, mamma? Chiese. Perché l'ho sognato, rispose Clara. Bastò questo a tranquillizzare completamente Blanca. Si asciugò le lacrime, alzò la testa e non pianse più sino al giorno in cui morì sua madre, 7 anni dopo, malgrado non le fossero mancati dolori, solitudine e altri motivi. Separata da sua figlia, alla quale era stata sempre molto unita, Clara entrò in un altro dei suoi periodi confusi e depressi. Continuò a fare la stessa vita di prima, con la grande casa aperta e sempre piena di gente, con le sue riunioni di spiritisti e le sue serate letterarie, ma aveva perso la capacità di ridere con facilità e spesso rimaneva a guardare fissamente davanti a sé, smarrita nei suoi pensieri. Tentò di stabilire con Blanca un sistema di comunicazione diretta che le permettesse di ovviare ai ritardi della posta, ma la telepatia non sempre funzionava e non c'era certezza di una buona ricezione del messaggio. Poté verificare che le sue comunicazioni si ingarbugliavano per via di interferenze incontrollabili e venivano capite cose diverse da quelle che aveva voluto trasmettere. Inoltre, Blanca non era incline agli esperimenti psichici. Nonostante fosse stata sempre molto vicina alla madre, non aveva mai dimostrato la minima curiosità per i fenomeni della mente. Era una donna pratica, con i piedi in terra e scettica, e la sua natura moderna e pragmatica era un ostacolo grave per la telepatia. Clara dovette rassegnarsi a usare i metodi convenzionali. Madre e figlia si scrivevano quasi quotidianamente e la loro nutrita corrispondenza sostituì per vari mesi i quaderni in cui annotava la vita. Sicché Blanca era al corrente di tutto quello che succedeva nella grande casa dell'angolo e poteva illudersi di essere ancora in famiglia e che il suo matrimonio fosse solo un brutto sogno. Quell'anno le strade di Jaime e di Nicolás si separarono definitivamente perché le divergenze tra i due fratelli erano irriducibili. Nicolás in quei giorni aveva la mania del ballo flamenco che diceva di aver imparato nelle taverne di Granada, sebbene in realtà non fosse mai uscito dal suo paese, ma era tale il suo potere di convinzione che perfino in seno alla sua stessa famiglia avevano cominciato a nutrire dubbi. Al minimo pretesto offriva una dimostrazione. Saltava sul tavolo della sala da pranzo, il grande tavolo di leccio che era servito per la veglia di Rosa molti anni prima e che Clara aveva ereditato e cominciava a battere le mani come uno scatenato, a pestare i piedi spasmodicamente, a saltare e a cacciare grida acute finché non riusciva ad attirare tutti gli abitanti di casa, qualche vicino e una volta anche i carabinieri. Che erano arrivati con i manganelli in pugno, infangando i tappeti con gli stivali, ma che avevano finito per applaudire e gridare olè come gli altri. Il tavolo aveva resistito eroicamente, sebbene in capo a una settimana avesse l'aspetto di un bancone da macellaio usato per squartare agnelli. Il flamenco non aveva alcuna utilità pratica nella chiusa società della capitale di allora, ma Nicolás mise un'inserzione discreta sul giornale in cui offriva le sue prestazioni come maestro di quella focosa danza. Il giorno dopo aveva un'allieva e nel giro di una settimana si era sparsa la voce della bellezza di quel ballo. Le ragazze accorrevano in gruppo, all'inizio vergognose e timide, ma lui cominciava a farle girare intorno, a far loro battere i piedi, afferrandole per la vita, a sorridere col suo stile da seduttore e in breve tempo riusciva a renderle entusiaste. Le lezioni furono un successo. La tavola della sala da pranzo era arrivata al punto di andare in pezzi. Clara aveva cominciato a lamentarsi del mal di testa e Jaime rimaneva chiuso nella sua stanza, cercando di studiare con due palline di cera nelle orecchie. Quando Esteban Trueba venne a sapere quello che succedeva in casa durante la sua assenza, esplose in una giusta e terribile collera e proibì a suo figlio di usare la casa come accademia di ballo flamenco o di qualunque altra cosa. Nicolás dovette interrompere le sue contorsioni, ma quell'esperienza gli servì per divenire il giovanotto più popolare della stagione, il re delle feste e di tutti i cuori femminili, perché mentre gli altri studiavano, si vestivano in doppio petto grigio e si curavano i baffi al ritmo dei boleri, lui predicava il libero amore, citava Freud, beveva Pernod e ballava il flamenco. Il successo sociale, tuttavia, non gli fece diminuire l'interesse per l'abilità psichica. di sua madre. Studiava con veemenza, faceva pratica, sino a mettere in pericolo la sua salute e assisteva alle riunioni del venerdì con le tre sorelle Mora, nonostante il divieto inequivocabile di suo padre, che rimaneva dell'idea che quelle non erano cose da uomini. Clara cercava di consolarlo dei suoi insuccessi. Sono cose che non si imparano né si ereditano, figliolo, diceva, quando lo vedeva concentrarsi fino a diventare strabico in uno sforzo sproporzionato per muovere la saliera senza toccarla.